chiedere. Ti prego, no, non me lo chiedere. Perché mi pizzicano i piedi, ma voglio stare con te. Fortuna che c'è anche il cielo, fortuna che siamo in tre. Bello vivere, notte strana è. Io vicino a te e tu vicino a me. Non mi chiedere, ti prego, solo non mi chiedere. Per quanto tempo stiamo ancora qua? Fra quanto tempo una stella cadrà? Fortuna che c'è ancora cielo. E poi sei bella, Dio quanto sei bella. Come si fa a non toccarti le labbra e i capelli, toccare la realtà? Ma se davvero mi stavo sbagliando, allora dimmelo te. Se nei tuoi occhi ci vedo le stelle, che problema c'è? Ma è difficile. Però, com'è difficile. Chiudo gli occhi e tu non sorridi più. Ma è difficile, Dio solo sa quanto è difficile. E cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? E già non mi basta il cielo, e già non mi basti te. E ora sbrighiamoci, andiamo che è tardi, sono già le tre. Adesso tocca puntare la sveglia e voglio ridere. Ma sì, di certo sarebbe più bello e anche più semplice se tutto quanto davvero girasse come dici te.